Grazie, grazie, grazie. Siamo Miotic da Bologna. Grazie per essere qui. E insomma, visto che non cantiamo, diciamo proprio due cazzate in croce. Grazie a Lollo per averci invitato, grazie a tutti voi, grazie a tutte le organizzazioni e a tutti quelli che suoneranno dopo di noi. Il prossimo pezzo è un pezzo storico per noi. No, io ci provo, però è per questo che non cantiamo. Thank you. prossimo pezzo è un pezzo nuovo che non abbiamo mai fatto dal vivo, ma vabbè, giusto per dare una piccola introduzione, l'avevamo scritto in onore di una bellissima pubblicità degli anni 90. Non so quanti di voi abbiano vissuto gli anni 90, ma non lo so. Thank you. vendibile o schifo.